l'agonismo dei greci e i giochi olimpici, i giochi più importanti. Nell'antica Grecia le gare sportive si svolgevano in molti luoghi. Intorno al 500 a.C. se ne contavano circa 50, ma solo alcuni giochi erano davvero famosi e attiravano atleti da tutto il mondo greco. I più importanti erano i giochi pitici, che si tenevano ad Elfi, i giochi istmici a Corinto e i giochi nemei a Nemea. E soprattutto i giochi olimpici, che si svolgevano a Olimpia, una piccola città dell'Elide nel Peloponneso occidentale. I giochi olimpici furono istituiti nel 776 a.C. e si svolgevano ogni 4 anni. Una grande folla in viaggio per i giochi. La Grecia antica era spesso attraversata da guerre. Per permettere a tutti di viaggiare senza pericoli, prima dei giochi olimpici, veniva proclamata una tregua. Le guerre si fermavano e atleti e spettatori potevano spostarsi in sicurezza. A Olimpia arrivavano persone da tutto il mondo greco e anche da terre non greche. Oltre agli atleti e agli spettatori, giungevano venditori ambulanti, cantanti e musicisti, danzatori, giocolieri, indovini e prestigiatori. Era una grande festa, dove molti cercavano divertimento oppure un modo di guadagnare. La gara dei carri. I giochi olimpici iniziavano con la corsa dei carri, che si svolgeva nell'ippodromo ed era la gara più famosa. I carri avevano 2 ruote ed erano trainati da 4 cavalli. Dovevano compiere 12 giri per un totale di circa 9 chilometri. Il momento più difficile era la curva attorno alle mete, due grandi pietre poste alle estremità della pista. Qui l'abilità dell'auriga, cioè il guidatore del carro, era fondamentale. Gli scontri tra carri erano frequenti e non mancavano feriti e morti, cosa che rendeva la gara ancora più emozionante per il pubblico. Chi era davvero il vincitore? L'auriga che vinceva veniva applaudito dalla folla, ma non era considerato il vero vincitore. Per i greci, il vero vincitore era il cittadino ricco, che aveva messo a disposizione il carro, i cavalli e aveva pagato l'auriga. Questo perché l'onore della vittoria andava alla polis, cioè alla città, e a chi aveva contribuito a renderla famosa. Le altre gare. Dopo la corsa dei carri si svolgeva la corsa dei cavalli, molto rischiosa perché i fantini cavalcavano senza sella, senza staffe e senza ferri ai cavalli. Seguivano poi le gare del pentathlon, che comprendeva 5 prove. Il lancio del disco, salto in lungo da fermo, lancio del giavellotto, corsa di 200 metri, e lotta. C'erano anche altre gare come la corsa di 400 metri, la corsa di fondo, circa 5 chilometri, il pugilato, il pancrazio, una lotta durissima in cui quasi tutto era permesso. Queste gare erano molto violente e a volte mortali. Atleti sempre più specializzati. All'inizio molti pensavano che gli atleti fossero dilettanti, ma non era così. Nei primi secoli dei Giochi olimpici gli Spartani vincevano spesso, grazie al loro durissimo allenamento militare, che iniziava fin da bambini. Fino al 600 a.C. circa la metà dei vincitori olimpici erano Spartani. Col passare del tempo, però, le gare richiesero un allenamento sempre più specifico. Non bastava essere più forti, bisognava allenarsi solo per una disciplina. Le città greche iniziarono quindi a investire molto sui loro atleti e intorno ai giochi olimpici cominciò a girare molto denaro. A Olimpia il premio era solo simbolico, una corona di rami di olivo e la gloria eterna. Ma nelle loro città i vincitori ricevevano ricchi premi in denaro. E un grande campione poteva costare moltissimo alla polis. Il ruolo delle donne nei giochi olimpici antichi. Nei giochi olimpici antichi le donne non potevano partecipare come atlete. Inoltre, alle donne sposate era vietato assistere come spettatrici. La punizione prevista era molto severa. C'era però un'eccezione importante. Le ragazze non sposate potevano assistere ai giochi. Le donne comunque avevano propri giochi sportivi, chiamati giochi erei, dedicati alla dea Era. In queste gare le ragazze correvano nello stadio di Olimpia, ma con regole diverse rispetto agli uomini. Un fatto curioso. Anche se non potevano gareggiare, una donna poteva essere dichiarata vincitrice nella corsa dei carri, se era la proprietaria dei cavalli e del carro. La più famosa fu Cinisca di Sparta, la prima donna della storia a vincere le Olimpiadi.